Noi di solito a Fujiko Factory del lunedì ci occupiamo di sex, ma stavolta siamo andati non è vero che sul sax, il sax di Uomo Summer. Ciao Uomo! Ciao ragazzi! Ciao, buon pomeriggio! Benvenuti a Uomo Summer! Come scusa? Benvenuti a Uomo Summer! Grazie. Che poi sarebbero uomini Summer, lo possiamo dire che non siete uno siete solo? Un duo! Siamo in due, io sono Michele, poi c'è Vincenzo che canta, okay. Io scrivo le canzoni, e lui le interpreta, poi comunque c'è un confronto continuo e niente, sì, parlavate del sax, il sax è una chicca che volevo inserire, tra l'altro questo è un sassofonista, no, non ricordo il nome, ma perché è opera, diciamo, del suo coinvolgimento del produttore del pezzo che è Matteo Cantaluppi, okay. Però questo sassofonista sassuona anche con Loredana Bertè e l'atmosfera di questo diciamo refrain di sax richiama un po' quelle atmosfere dei pezzi pop anni 70 che tanto ci piacciono, che è piaciuto tanto anche a noi, e soprattutto abbiamo trovato un'altra persona che fa un sacco di interviste perché ci ha spiegato tutto quanto quello che c'è dietro al pezzo. Vi riconosciamo subito quando siete avvezzi a fare le interviste, perché noi vi diciamo una cosa e voi ce ne dite 20. Certo, per noi sono le interviste più facili, sono le telefoniche più facili, perché così non dobbiamo tirarvi fuori le parole di bocca. Io ti ho chiesto all'inizio se potevo dire che eravate due e non uno, perché sai, cioè, con questa moda di dell'anonimato, sì del mistero, non sai mai se puoi dire il vero nome dell'artista, se puoi dire di dov'è, cosa fa, quindi no, c'è sempre un po' da chiedere. No, non è il nostro caso, nel senso che noi avevamo voglia di avere un moniker che ci rappresentasse e abbiamo scelto questo nome un po' bislacco, anche abbastanza autoironico, però non è, diciamo, una nostra prerogativa quella di voler essere anonimi, mascherati, semplicemente okay. Facciamo parlare la musica, è uscito questo primo singolo, e neanche nel video ci siamo, ma non è detto che poi nel prossimo metteremo la nostra faccia, cioè non è un problema, voglio dire, non è una ricerca di anonimato, era semplicemente il fatto di battezzare il progetto con un nome e poi si vedrà, insomma. Ma ascolta, non ci avete messo subito la faccia perché non diciamo non siete proprio bellissimi o per altri motivi? È una domanda, cioè, questa è una domanda che non puoi aver preparato la risposta. No, ma soprattutto in termine tecnico, utilizzando i termini giornalistici, questa qui verrebbe definita domanda del cazzo. Proprio sui manuali di giornalismo viene definita così una domanda del genere. No, vabbè, diciamo che domande del cazzo me ne sono fatte nel corso della mia, diciamo, che è un progetto che io ho. Poi ne ho anche altri, numero 6. Ti sentiamo un po' a tratti, sei in galleria. Ecco. No, assolutamente. No, dicevo che vabbè, è una domanda come un'altra, però lo lasciamo giudicare agli altri. Però dai, ci difendiamo abbastanza, non siamo dei. Ok, ok. Tutto Vincenzo. Una cosa che a me e Giulia è piaciuta molto, a parte il singolo che ci è piaciuto, anche perché altrimenti non l'avremmo passato, è il nome del progetto, Uomo Summer, è molto carino. Da cosa nasce? Sì. Nasce da così, una serata alcolica, mi sembra di ricordare, no? cercavamo un nome, è venuta fuori Donna Summer, abbiamo detto Uomo Summer, nulla di che, nulla di studiato. Allora io avevo ragione, l'avevo nasata, che fosse da Donna Summer. Però sì, comunque vuole un po' richiamare quelle atmosfere lì, come fa anche il sax. Volendosi, poi noi abbiamo altri pezzi pronti, l'idea è quella di procedere con dei singoli, quindi prima di pensare a un album, che comunque avremmo anche pronto, abbiamo l'idea di far uscire dei singoli, due o tre singoli e poi vedere. Però sì, diciamo che il materiale che abbiamo realizzato è abbastanza variato, segue però questo filone electropop, okay. di cose che ci piacciono e vengono anche soprattutto dagli anni 80, primi 90, okay. Perché poi ci sono atmosfere. Comunque il produttore Matteo Cantaluppi è specializzato un po' in questo tipo di sonorità, gli abbiamo affidato molto il sound da tirar fuori con delle nostre, ovviamente, con dei nostri input. Ti faccio una domanda sull'album, siccome hai parlato di album, ma nel 2020, tanto siamo nel 2019, ma ormai è quasi 2020, perché è tutto così velocizzato, l'album, proprio inteso il disco, l'album, far uscire questa sequenza di pezzi in un unico contenitore, ha senso o ormai si può andare anche tranquillamente solo con i singoli, si può ragionare solo sulla pubblicazione dei singoli? Guarda, purtroppo ne ha sempre meno per una larghissima fascia di pubblico. Questo è un dato di fatto. Cioè, e io penso di essere in quella fascia di pubblico, oltretutto. Nel senso che io sono 40 anni, quindi ancora faccio parte di una generazione che attendeva l'uscita del vinile e lo comprava e lo consumava. Quindi poi estremizzo dall'altra parte un figlio di 11 anni e mezzo che ascolta musica ma non concepisce nemmeno lontanamente il concetto di disco, no? Lui ragiona a canzoni e l'ha concepito una volta che l'ho portato a un firma copie di un rapper famoso e ha dovuto comprarsi firma copie. Si è trovato tra le mani questo oggetto misterioso e ha capito che si fanno ancora dischi, cioè che le canzoni che lui ascolta fanno parte quasi sempre di progetti, no? Infatti quando io mi faccio quella domanda sul disco, mi viene un po' da pensare che alla fine sia un po' convenzione del mercato musicale dover far uscire il disco. Sì, sì, tra l'altro, guarda, io ritengo che nel pop italiano, ma soprattutto io ora faccio anche l'autore, no? Quindi mi confronto col pop italiano. Molte volte purtroppo si fanno uscire dischi che hanno due o tre pezzi forti e il resto sono esatto, sì. È un concetto, è proprio una cosa ancora più in là. Cioè non solo non ha più quasi senso, purtroppo, ma si fanno ancora e si fanno con dei riempitivi. C'è una parte di pubblico, di affezionati, per cui avrà sempre senso. Okay. Quando poi, fra 40 anni forse basta, perché non ci saranno morti quelli che compravano il CD. E noi, guarda, noi mettiamo già le mani avanti e possiamo assicurare che il disco di Uomo Summer sarà tutto quanto pieno zeppo di belle canzoni, ne siamo proprio arcisicuri. Ce l'abbiamo provato. Michele, un abbraccione. Un abbraccione a voi. E in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima. Ciao.